cipolla rossa, olio d'olive ed acqua fresca, le foglie verdi profumate di basilico d'estate, un po' di pepe, un po' di aglio, un po' di sale quanto basta, non ti scordare i pomodori mezzi verdi dalla cassa. Dentro al vino, ma quanto è buono il pecorino, ma come erotica la rucola condita sul crostino, fiorano i pesche, melone rosso, le ciliegine e gli albicocche, col vino nella testa sono facili le filastrocche. Acqua di sale, portati via questa fame e questa sete, fuori da casa mia. Acqua di sale, scendi piano piano, questa fame e questa sete, tienile lontano. Spighe di grano sole cicale, vasi di menta sulle scale, i fichi d'India tra le pietre, un po' di terra nelle scarpe, scende il sudore lungo la schiena, alla nocciola voglio il gelato, ma che profumi porta il vento all'ombra sotto il pergolato. Acqua di sale, portati via questa fame e questa sete, fuori da casa mia. Acqua di sale, scendi piano piano, questa fame e questa sete, tienile lontano. Questa sete.